proviamo. Sono Dario D'Alessandro, vengo dall'Aquila dove vivo dal 2001. Non sono originario dell'Aquila, ho scelto di vivere lì dopo gli studi universitari per provare a fare un precariato come un altro in uno studio legale. E due cose mi sono venute in mente dall'introduzione. Uno è questo: in realtà la terra trema sempre, non è la terra che trema quello che fa paura. Non è la terra che trema quello che ha fatto i morti questa volta, è la capacità dell'uomo, ma non la mettere così sull'ontologico, la capacità del sistema sociale di dimenticare che la terra trema, di dimenticarlo con una velocità più che, come dire, meravigliosa, perché il terremoto della Marsica è di scarso 90 anni fa e fece 15.000 morti, il declassamento del territorio del comune dell'Aquila da zona a rischio 1 a zona a rischio 2 di metà degli anni 80 e serviva ad avvantaggiare, evidentemente con le riduzioni di costo, uno sviluppo economico improntato sul consumo di territorio, quindi costruire sempre di più anche lì dove sai che sei in piena faglia, facendolo con meno cemento e con meno ferri di quello che sarebbe stato necessario. Questo è quello che ha fatto la maggior parte dei danni, legato a un'altra dimensione di rendita, che era quella centrata sul centro storico affittato agli universitari, quindi edifici vecchi, spesso fatiscenti, privi di servizi, non rimessi sicuramente a norma rispetto alla normativa antisismica, e dove tanti studenti sono morti. Non sono morti studenti solamente nella casa dello studente. E questo era la prima cosa. E la seconda è che forse anch'io sono troppo, cioè, il rischio di una cattiva visione viene tanto dal troppo lontano quanto dal troppo vicino. Vedersi scendere le cose addosso, intorno, forse non è il punto di vista migliore per leggere sia l'intervento di protezione civile che la ricostruzione. Quindi tutto quello che dirò è chiaramente viziato da questo punto di vista soggettivo. E allora, prima di parlare di quello che è il nostro progetto a Pesco Maggiore, che è un buco del culo del mondo a 1.000 metri di altezza di 45 abitanti, forse è il caso che io dica comunque a titolo di testimonianza due cose in più su quella che è stata invece, che è adesso, quella attualmente in corso, la ricostruzione tra virgolette proposta dallo Stato. Intanto consiglio una lettura che si trova facilmente su internet, sul sito di Edinburgh, quello di Salzano, che è un'elaborazione di un gruppo di architetti e ingegneri dell'Aquila e non, che leggono la ricostruzione aquilana con una particolare attenzione al centro storico, e poi vi dirò magari perché, e si intitola "L'Aquila non si uccide così, anche una città". Il testo è abbondantemente documentato ed è molto più fruibile di quello che posso riassumere io, ma il succo è questo. C'è stata una scelta precisa, compiuta nei primi giorni successivi al terremoto, di non lavorare su questa catastrofe naturale come si era lavorato negli ultimi 30 anni, 40 anni sulle catastrofi naturali in Italia, quindi baraccare tutta la popolazione e pian pianino ricostruire, sulla base di un lavoro condiviso prima di tutto con le istanze locali e con le popolazioni, si è scelto di applicare un modello nuovo, che era quello annunciato come il modello della New Town, poi declinato in multi-New Town, perché sono tanti piccoli complessi condominiali, 4-5 complessi condominiali sparsi nella campagna a mucchietti, che però disegnano una nuova città. L'Aquila è un comune di 64 frazioni e un capoluogo, 70.000 abitanti distribuiti su un territorio vastissimo, che nasce da una sedimentazione storica. Il capoluogo ha origine nel 1002 come luogo di mercati e di scambio, e assolve poi nel corso dei secoli le funzioni sostanzialmente direzionali di un'economia con un'economia d'aria che si basa sulla pastorizia, e quindi il rapporto tra i pascoli, i coltivi sottostanti e poi il luogo di scambio e di commercializzazione. Cioè, l'Aquila, non, magari adesso si ha l'immagine di un luogo perso in mezzo agli Appennini, fino all'ingresso all'età moderna, quella era la direttrice cruciale per tutti gli scambi nell'Italia centrale, da Firenze a Napoli si passava per L'Aquila. E L'Aquila è segnata dai terremoti, cioè, sistematicamente, almeno ogni 3 secoli c'è un terremoto distruttivo, tant'è che la città che andava distrutta adesso era sostanzialmente una città settecentesca, le parti medievali erano pochissime. Fatto sta che nonostante questa distruttività degli elementi naturali, questi luoghi sono sempre stati abitati e riabitati dopo ogni catastrofe. L'Aquila è stata ricostruita esattamente nel 703, nei 50 anni successivi al 1703, l'Aquila è stata ricostruita esattamente dove era. Quindi in cima a una collina e tutte le varie frazioni a mezz'aria, diciamo, fra il piano, la conca coltivata e i pascoli di montagna. La nuova città che realizza l'intervento di protezione civile si colloca invece tutta quanta sul piano, in prossimità di alcune arterie viarie e ferroviarie, e disegna una situazione completamente nuova. Cioè, quello che è certo oggi è che il centro dell'Aquila, cioè 120 ettari di centro storico settecentesco, non verranno ricostruiti in tempi brevi, non verranno ricostruiti per assolvere quelle funzioni che ancora assolvevano, quindi 15.000 residenti e a circa altrettanti universitari fuori sede. Che cosa se ne farà del centro storico dell'Aquila non si sa a questo punto, non è dato sapere, perché il progetto casa del governo non basta per tutti, ma basta per i 15.000 aquilani che risiedevano nel centro storico, una volta che sarà completato presumibilmente a marzo-aprile dell'anno prossimo. Nel frattempo, almeno sono i dati di oggi, almeno altre 20.000 aquilani sono ospiti negli alberghi a spese di tutti noi, pagano una tariffa di fra i 50 e i 60 euro giornaliere dal 6 di aprile e questa manna va ad arricchire fondamentalmente gli albergatori della costa che negli anni scorsi piangevano miseria e quest'anno hanno avuto un pienone clamoroso. È mera coincidenza che gli alberghi insistano nella provincia di elezione dell'attuale presidente della giunta regionale, ma questo sarebbe un fin troppo facile giocare al tiro al bersaglio, mentre mi interesserebbe parlare più delle dinamiche di fondo, al di là poi delle semplici scelte, diciamo, territoriali in senso deleterio. Quindi gli aquilani sostanzialmente deportati, un centro storico privato di senso, una nuova città che si ridisegna sul piano e non più sulle alture. Una nuova città che ha perso ogni punto di riferimento, nel senso che una volta il centro assemblava, riuniva in sé sia le funzioni simboliche che quelle propriamente di servizi. Quelle di servizi adesso sono esplose nell'intorno, alcune in un'area industriale, altre in un'altra, una in un campo sportivo, insomma sono un po' sparse in un'area di circa 20 km quadrati per scarsi a questo punto 30.000 abitanti, quindi una città estremamente diffusa. Già prima del terremoto il consumo di territorio all'Aquila per abitante pro capite era estremamente alto, a questo punto è praticamente salito alle stelle. Da questa situazione in cui un intervento calato dall'alto che risponde a logiche essenzialmente economicistiche, cioè si è scelto di fare un grosso intervento di spesa pubblica, tutto sotto la veste dell'emergenza, perché qual è stata la cosa veramente devastante? Che... Ah sì, scusatemi, ha ragione. La scelta di costruire la New Town è stata calata dall'alto a distanza di 10 giorni dal terremoto, quando dormivamo tutti ancora nelle macchine oppure nelle prime tende che stavano arrivando della protezione civile, 2 non avevamo ancora ben capito quello che c'era caduto addosso, 3 questa scelta è stata fatta direttamente in televisione prima ancora di essere discussa con qualsiasi ente locale. È una scelta decisamente di alto costo, perché ogni appartamento del progetto casa costa 2.700 euro al metro quadro, i costi di realizzazione in zona erano sui 1.200 al metro quadro, quindi diciamo una scelta veramente fuori mercato, affidata con procedure di emergenza, quindi senza gare di nessun Cristo. Lo stesso consorzio ha poi avuto in progressivo ampliamento, sia l'ampliamento del piano case, perché inizialmente erano 4.000 gli appartamenti previsti sono diventati 4.500, sia la collocazione dei MAP, cioè sostanzialmente le baracche, moduli abitativi provvisori, baracche prefabbricate, che invece di collocarsi da subito si è deciso di collocare il 15 settembre. Cioè il 15 settembre il Comune finalmente ha annunciato che, il Comune insieme alla Protezione Civile, ha finalmente annunciato che le frazioni montane del Comune dell'Aquila avrebbero avuto per dicembre forse dei prefabbricati. Fino ad allora qual era la situazione nelle frazioni di montagna cui, diciamo, tipologicamente appartiene Pesco Maggiore? Un grave ritardo nell'arrivo dei soccorsi. Pensate che a Pesco Maggiore per i primi 40 giorni il campo di accoglienza è stato interamente autogestito, cioè abbiamo tirato fuori le attrezzature per la sagra, le tende, che i tendoni che ci avevamo, e ci siamo messi tutti quanti lì sotto, e per 40 giorni siamo andati avanti così. Poi dopo il 40° giorno è arrivata la Protezione Civile. Che cosa fa la Protezione Civile? Mette una bella tendopoli colorata di blu con dentro gli omini della Croce Rossa e annuncia che le case verranno fatte 6 km più a valle, 300 metri più in basso, perché Pesco Maggiore è un posto troppo piccolo per meritare una qualche sorta di intervento. Chiaramente se la scala di intervento risponde al mettiamo 30 famiglie dentro un condominio e accanto ce ne mettiamo altre 30, accanto altre 30, però, come dire, spendere 2.700 euro al metro quadro su questi simpatici giganti, è ovvio che un paesino di 45 abitanti con 30 terremotati non consentiva proprio questa scelta. Cioè non si sapeva né dove mettere il condominio, perché non c'era lo spazio per mettere il condominio, né tantomeno perché andare a mettere un condominio su, tanto vale spostare questi simpatici vecchietti a valle. Rispetto a questa scelta nasce il nostro progetto, che invece è un progetto, appunto, che non è che legge un bisogno astratto su un dato statistico, come dire, no, una rilevazione statistica. Allora, tot senza tetto, tot posti letto, dove li mettiamo? Ma che parte da un altro punto di vista, cioè questi non sono persone astratte che stanno in luoghi, che non, in spazi che non hanno un senso, sono persone concrete che vivono in un luogo e fare un intervento di emergenza vuol dire in primo luogo ledere il meno possibile i rapporti di senso preesistenti all'evento catastrofico, perché se no la catastrofe non la fa la terra che trema, come di fatto non l'ha fatta la terra che ha tremato, perché sono stati solamente, tra virgolette, 300 morti. Ma il disastro vero e proprio l'ha fatto l'intervento successivo di Protezione Civile, che prima ha messo nelle tende per 6-7 mesi donne, bambini, giovani, anziani, senza nessuna distinzione né per quelle che erano le precedenti relazioni, diciamo, di villaggio, ma senza neanche nessuna distinzione fra l'anziano disabile e magari il giovane abile, per cui tutti indistintamente messi in un recinto, perché i campi erano recintati, a pasti ad orario fisso, perché i pasti erano ad orario fisso, con un controllo all'ingresso e all'uscita, per 6 mesi ad aspettare che il governo, come promesso, portasse le case. Rispetto a questa scelta di passivizzazione ci è sembrato a un certo punto ovvio provare a fare qualcosa e provare a farlo ripartendo da quello che c'era prima. Però mi sto un po' perdendo, quindi no. Se vuoi velocissimamente tratteggiare quelle che sono le caratteristiche del progetto EVA, e poi passiamo la parola a Matilde e poi ritorniamo a te magari. In breve, le caratteristiche del progetto, allora, da un punto di vista possiamo vederlo così, l'obiettivo dell'intervento che abbiamo chiamato EVA perché è l'acronimo di ecovillaggio autocostruito e perché è poi invece il nome della donna che biblicamente apre il rapporto fra conoscenza e azione, perché questa è la scelta morale. Poi punta a due obiettivi fondamentali. Uno, mantenere più persone possibili del paese a vivere in paese, questo non come obiettivo a sé stante, ma come passaggio strategico. Non è possibile ricostruire il centro storico se quel posto viene abbandonato. Pesco Maggiore ha già un'elevata percentuale di seconde case o edifici non più abitati. Se togliamo da lì anche quei 20 vecchietti che ci sono, non si capisce chi, o meglio, si capisce benissimo chi verrebbe un domani a ricostruire l'abitato, e sarebbe un intervento al di fuori del senso di quel luogo, che ne segnerebbe probabilmente la morte da un punto di vista culturale. Il secondo aspetto era, adesso che ci siamo ricordati che la terra trema, che avremmo dovuto saperlo prima, ma vabbè, facciamo in modo che il nostro abitare quotidiano da oggi in avanti non sia soggetto a questo, come dire, a questa spada di Damocle della terra che trema. Cerchiamo di cogliere questa occasione di maggior ascolto nei confronti di una terra che ha sempre tremato, per metterci in una relazione diversa anche col luogo dell'abitare. Quindi abbiamo scelto di realizzare tanto le casette antisismiche, sembrano una stupidaggine, ma ancora ad oggi le ordinanze di protezione civile inventano deroghe invece per i prefabbricati o per i moduli provvisori dove vengono accolte le scuole aquilane, cioè per i tecnici, ma in questo momento nella zona del cratere i progetti di protezione civile che riguardano le scuole dove si mettono i bambini e i prefabbricati dove si mettono i terremotati non vedono un deposito al genio civile del progetto, ma una semplice comunicazione che un progetto è stato approvato. Punto. Così. Questo è tutto l'antisismico che viene considerato al momento in Abruzzo negli interventi di protezione civile. Noi abbiamo pensato invece di farci una casa antisismica con tutti i calcoli che ci servono per fare una casa antisismica da un punto di vista strutturale, abbiamo scelto di adoperare delle tecnologie bio, tra virgolette, cioè di evitare almeno simbolicamente di ricadere dentro la filiera del cemento, che tanti scempi ha creato paesaggisticamente, ma non solo, come abbiamo visto dalla qualità del cemento che è stata usata in questo terremoto, e quindi realizzare delle abitazioni che avessero la minor componente possibile di cemento pur tenendo presente la normativa antisismica, quindi al di là di un basamento in cemento armato il resto è costruito in legno, cellulosa per l'isolamento del tetto e paglia per la tamponatura delle pareti. Quindi questi due obiettivi, diciamo, sono strumentali per non abbandonare il luogo, per recuperare un diverso rapporto. La scommessa che viene da prima del terremoto, che abbiamo deciso di portare avanti nonostante il terremoto, perché il terremoto è un intervallo tutto sommato assai ridotto, 58 secondi di scossa, qualcuno dice 38, non ancora si capisce bene se il 6 è 3 o se il 4, vabbè, dati anche abbastanza insignificanti dopo l'esperienza del momento. Dura poco, non c'è ragione di interrompere le proprie esistenze, non c'è ragione di abbandonare tutto il senso che si aveva prima. E la scommessa è questa, che un borgo di montagna a 1000 metri di altezza oggigiorno non sia più un luogo così disgraziato da vivere, che sia possibile giocare in questa frazione una scommessa sul riabitare luoghi di montagna in prossimità della città, di recuperare coltivi tradizionali, di avviare delle iniziative culturali di formazione e anche di assistenza sociale, rendere quindi questo una sorta di ecovillaggio nel senso proprio della parola, non solamente ecovillaggio perché è costruito con bioedilizia.